stupida che sei. Tu non impari mai che il preservativo lo si infila arrotolato. È più stupida di te, sappi non ne troverai. Lo trovi anche scritto nelle istruzioni. Ma che stupida che sei, l'hai rotto un'altra volta e parli alla confezione diventata vuota. E da stupida che sei, tu non farai mai niente. Sei una cogliona che sa solo spaccare tanti condom. Scarta la confezione, tira fuori il pallone, ma non devi gonfiarlo, non sai fare un cazzo, ed è inutile adesso. Mi farai venire dentro il tuo piccione, dentro il tuo piccione. Usalo sempre e ad ogni rapporto. Indossalo all'inizio di ogni rapporto. Applicalo tenendo premuto il serbatoio per evitare la rottura per la pressione dell'aria in esso presente. Usarlo per un solo rapporto. Conservalo dopo l'acquisto in un luogo idoneo e in modo corretto. Estraelo subito dopo l'eiaculazione e comunque prima della detumescenza del pene per il rischio di fuoriuscita di liquido seminale e o di rilascio del condom nel sacco vaginale del partner. Contravvenire anche ad una sola di queste semplici ma fondamentali norme mette a repentaglio la sicurezza contraccettiva e la salute. Stupida, che non ci vuole un cazzo, eh? La confezione tira fuori il pallone, ma non devi gonfiarlo, non sai fare un cazzo, ed è inutile adesso. Ti farai venire dentro il tuo piccione, dentro il tuo piccione. Stupida, stupida. Non sai fare un cazzo, ed è inutile adesso. Ti farai venire dentro il tuo piccione, dentro il tuo piccione. Brutta.